Agli inizi del suo secondo anno cominciò a lavorare tutto il giorno in ufficio come Bungie, usufruendo soltanto delle vacanze concesse a tutti gli impiegati. Una sera il signor Muraki disse a tavola: «Ho scritto a vostro padre per informarlo della diligenza con cui lavorate». Aiwan si inchinò ringraziando e sentì che qualcuno in quel momento lo guardava. Era Tama, presente quella sera, che dall'altra parte della tavola lo fissava coi suoi neri occhioni. Ma subito guardò altrove. Aiwan si sentì scombussolato. Non odiava più il padre ora. No, suo padre, il signor Muraki, ora cominciava ad esserne persuaso, avevano forse ragione. Nulla infatti irritava di più il signor Muraki che il comunismo. Quando sui giornali leggeva che il governo aveva fatto arrestare qualche studente sotto l'accusa di comunismo, traeva un lungo respiro, aspirando l'aria attraverso i denti e borbottava: «Sognatori! Come se coi sogni si potesse mai realizzare qualcosa!» Aiwan era indotto talora a pensare che si fossero sbagliati lui e Denlan, ma quel pensiero non gli dava ugualmente consolazione alcuna. Al contrario, accentuava l'isolamento del suo spirito, in quanto elemento di più viva diffidenza verso le realtà sulle quali a suo tempo aveva fondato la propria esistenza. Tutta la vita, si diceva ora, nell'ugual succedersi delle sue giornate, continuava secondo un immutabile corso. Se uno lottava contro di essa non riusciva a spezzare nulla, bensì ne usciva spezzato. Qualche volta, nella solitudine del suo lavoro o durante le ore di lettura o di passeggio, ore solitarie di cui ora la sua vita abbondava in quella casa tranquilla, gli pareva che tutto quello che era successo prima di venirci ad abitare fosse un sogno vago. Tutto, gli scriveva il padre, era come un tempo. Chiang Kai-shek era uomo di gran buon senso e si doveva a lui se i rivoluzionari erano stati estromessi, se sarebbero stati ricacciati verso l'interno e se ad essi sarebbe stato inibito di tornare alle prospere città costiere. Certo, non sarebbero tornati a Shanghai, perciò i banchieri aderivano saldamente al governo. Tutto prendeva una buona piega, una piega molto migliore di quanto si era sperato, perché Chiang Kai-shek, col suo straordinario potere sul popolo, aveva scelto la strada della saggezza anziché quella dell'avventura. 3 o 4 volte Aiwan aveva detto a Bungie: «Non posso stare qui in eterno, sono già passati 2 anni, è ora che mi cerchi un appartamento altrove». E sempre Bungie protestava e ne informava il padre, e il signor Muraki colse un giorno certa occasione per dire, col suo fare tranquillo ad Aiwan: «Non lasciate la mia casa, mi piace che l'amico di mio figlio vi risieda». Così, per 2 inverni, Aiwan era rimasto. Molte mattine, al calduccio delle spesse coltri, si era svegliato con la visione del piccolo giardino sotto la neve, neve morbida e spessa che non pareva nemmeno fredda. Le nebbie del mare tenevano lontano il ghiaccio e la brina, e quando la neve cadeva, rimaneva dove era caduta, sciogliendosi lentamente dal di sotto a contatto con la tiepida terra. La casa, dalle finestre di carta, che d'estate era così fresca, poteva essere molto calda d'inverno. Nella stanza di Aiwan c'era una specie di pozzetto scavato nel pavimento. Nel pozzetto era stato inserito un vaso o piccola caldaia e veniva riempito di carboni accesi coperti di cenere. Su quel calorifero veniva poi collocata una grata e infine una pesante coperta imbottita. Aiwan, le sere che non usciva con Bungie, rimaneva nella sua stanza seduto sulla coperta calda, perfettamente a suo agio. Qualche volta si radunavano tutti nella gran sala attorno a un grosso vaso colmo di carboni accesi, tutti coperti da una grande coltre, come seduti a tavola. Anche Tamà compariva, ma di rado, diceva sempre che aveva da studiare, specie in quell'anno che era l'ultimo del corso nella scuola femminile. Ma qualche volta veniva e quando c'era lei, Aiwan sedeva tranquillo, molto più tranquillo di quando lei non c'era. Non la guardava in faccia, non... ma la vedeva di sfuggita fra una battuta e l'altra dei discorsi con Bungie e col signor Muraki. E la evitava sempre di sedergli accanto e gli sapeva bene che non avrebbe potuto. Preferiva sedere accanto a sua madre, gli occhi vivi e ribelli nonostante l'esteriore tranquillità. Tutta quella libertà era in realtà apparente e anche questo Aiwan lo sapeva. Il signor Muraki, ad esempio, Poteva mutarsi d'abiti alla presenza di tutti, ma come accadeva, cominciava col volgere la faccia al muro. Quel gesto equivaleva a frapporre una tenda fra sé e tutti gli altri. Fantesche e familiari, tutti distoglievano lo sguardo da lui. E così per Tamà. Andava e veniva a suo piacimento, o così pareva, ma ora Aiwan sapeva, senza che nessuno glielo avesse detto, che sarebbero bastati un gesto o una parola meno che controllati per dover uscire da quella casa nella quale anche lui poteva andare e venire, ma sempre col presupposto di non prendersi una libertà eccessiva in tutti gli atti della giornata. Sul principiare dell'estate di quell'anno Tamà finì gli studi. Nessuno ne disse nulla ad Aiwan, ma ora la fanciulla era sempre in casa. Un tempo era solita indossare ogni mattina un vestito semplice e attillato di foggia straniera prima di uscire per andare a scuola. Adesso, al contrario, conservava per tutta la giornata il costume giapponese. A differenza di un tempo, Aiwan la trovava sempre in casa rientrando. Non la vedeva perché Tama faceva sempre in modo di evitarlo, ma sapeva che in casa c'era. Qualche volta l'intravedeva nel giardino, intenta a recidere un rametto da un albero fiorito. Oppure la vedeva in atto di collocare un vaso o un quadro sull'alcova di una camera. Se si incontravano, ella gli sorrideva, così gli sembrava, un po' tristemente. Certo, ora che non andava più a scuola, aveva aspetto più dolce, una prontezza inusitata. Aiwan era contento di saperla in casa, ma non si rendeva ragione di quella sua compostezza. Nessuno gli diceva nulla, tutti parevano tacitamente convenire che non fosse affare che lo riguardasse il fatto che Tamà andasse a scuola o rimanesse in casa. E infatti la cosa non lo riguardava. Ma un giorno, uscendo con Bungì, sotto la pioggia, non si poté tenere dal domandare perché Tamà pare cambiata ora che ha smesso di andare a scuola. Bungì, camminando nel fango, non si fermò. Ora, disse, è a casa che si prepara per il matrimonio. Per il matrimonio? Fece Aiwan. Si sposa? Non aveva pensato a Tamà sposa, ma certo, e molto naturalmente si sarebbe sposata, aveva quasi la sua età, nonostante avesse l'aria così giovane. Oh, niente è ancora deciso, rispose Bungee, lottando con l'ombrello di cotone nero di foggia straniera. Da noi, quando una ragazza ha terminato gli studi, si usa a tenerla in casa a prepararla al matrimonio, tu mi intendi? Educandola a far cucina, a cucire, a disporre fiori, a preparare il tè, a fare della musica, tutto, insomma, quel che è necessario tenere in piedi una casa e a servire un marito. Abbassò con gesto brusco l'ombrello, lo chiuse e lasciò che la pioggia gli schiaffeggiasse il viso. Che razza d'ombrello, osservò, gli ombrelli all'antica di cartoleata sono migliori dopo tutto. Tama, dunque, domandò Aiwan con la bocca stranamente asciutta. Certo, rispose Bungì. Ma il matrimonio non avverrà subito, ha ancora molte cose da imparare, soprattutto in fatto di uomini. Ecco il guaio con le moga come lei. Gli uomini in realtà non li conoscono. Invece, prendi per esempio Sumi, è una compagna perfetta, l'ideale per Akio. Essa è contenta di essere una compagna sottomessa, ma Tama è infarcita delle idee delle moga e dovrà dimenticarsene. Così dice mio padre, prima di prendere marito. Probabilmente prenderà delle lezioni da qualche buona vecchia geisha a riposo. Fa parte dell'istruzione, tu mi capisci? Aiwan ascoltava con un senso di orrore che lo sorprendeva. Che cosa importava a lui? Eppure gli pareva intollerabile che Tamà dovesse concedersi per il solo piacere e sollazzo di un uomo. Di quale uomo? S'avvide per la prima volta che ad onta dei rari incontri ella era parte della vita di quella casa e perciò anche della sua vita. Pensò al bel visino tondo, alle maniere graziose che fino a quel momento non si era accorto di notare, ma ora notava tutto di lei. Sei certo che non sia impegnata? Domandò, sapendo di dir cosa piuttosto sconveniente anche con Bungì. Non è cosa che mi riguardi, rispose Bungì. Poi lì, nella strada, si volse a guardare Aiwan. La pioggia gli rigava la grossa faccia, scendeva a rivoli sul bavero rialzato e per il cappuccio di tela cerata. Ti dirò tuttavia una cosa, Iwan, a te che sei come un fratello. Mio padre vuole maritarla al generale Sekki. Iwan aveva vissuto abbastanza in Giappone per conoscere quel generale Sekki, noto in tutta l'isola di Kyushu dove era nato. e dove tutti erano orgogliosi di lui, sebbene pochi lo amassero. Era un uomo di oltre mezza età, rimasto vedovo un paio d'anni prima. La moglie era stata sepolta con un grandioso funerale a cui Aiwan aveva assistito poco dopo il suo arrivo. Tutti, si può dire, vi avevano assistito, era stato un avvenimento. Il generale era comparso alla testa del corteo a bordo di una lenta automobile coperta di roselline e di gale di ruvida stoffa di cotone. Sulla macchina sedeva grosso e piatto come un rospo, col capo quasi calvo affondato nel colletto, il petto coperto di nastrini e decorazioni. Tutti lo guardavano, mentre dietro di lui, su di un'altra automobile più piccola, seguiva una vecchia fantesca, recante fra le braccia un minuscolo vaso con un pugno di ceneri umane. Tutto quel che restava della fedele moglie del generale. Non direi che tenere fanciulle facciano bene a sposare dei vecchiardi grassi, borbottò Aiwan ricordandosi del funerale. Era nauseato pensare che Tamassi andava allenando per divertire e servire quel vecchio obeso. Il generale Sekhi, rispose Bungi, è un vecchio amico di mio padre. Rise, non pensare troppo a queste cose, esclamò. Non giova, non permettere che l'amore diventi una cosa troppo importante. Guarda che cosa capita ad Akio. Non penso all'amore, disse lentamente Aiwan. Penso a Tama. E poi, per la prima volta, gli venne da pensare che forse Tama e l'amore erano la stessa cosa. Fino a quell'istante non gli era mai capitato di sentirsi realmente innamorato di Tama. Ma no, si diceva, non l'amava, non aveva forse vissuto con lei nella stessa casa per più di 2 anni senza pensarci. Quando l'incontrava ora, la guardava di sottecchi per convincersi che non l'amava. Per tutta l'estate continuò a ripetersi che era troppo bassa di statura, che aveva le spalle quadre, le labbra troppo piene, non valeva neanche peonia in quanto a bellezza. Ma c'era una differenza. Egli non aveva voluto toccare peonia, mentre per Tamà, guardandola, si dimenticava dei difetti del suo viso, delle sue mani, del suo corpo, e un irresistibile bisogno di toccarla, di stringerla, lo prendeva. Gli occhi erano così puri nel loro bianco e nero, così rosse le labbra piene. Pareva che, una volta pensato a Tamà, non ci fosse altra cosa al mondo a cui pensare. Il suo libro, il libro che andava leggendo, tutto quel che faceva, pareva inutile rispetto alla domanda fondamentale: amava o non amava Tamà? A tutta prima lasciò la domanda fra i problemi insoluti: poteva o non poteva amarla, ma se l'amava doveva chiederla in sposa. Il matrimonio era una cosa seria. Sposare Tamà. In fondo, perché no? Non voleva più tornare in Cina e perciò poteva pensare di stabilirsi nel bel paese dove era stato così generosamente accolto e assistito. Lui e Tamà avrebbero fondato una nuova famiglia. Cominciò a sognare. Tamà forse si preparava per lui. A questo pensiero tutto mutava. Se era per lui, allora naturalmente era giusto che avesse abbandonato la scuola per imparare a far la cuoca, a collocar con garbo fiori nei vasi, a suonare il liuto e a fare all'amore col proprio marito. E già vedeva lassù, tra le nuvole, una casetta tutta e soltanto per lui e per Tamà. Suo padre da principio si sarebbe opposto a quel matrimonio, ma poi avrebbe forse ceduto. Non era un vecchio amico del signor Muraki? Il signor Muraki in casa parlava sempre del padre di Aiwan, un uomo forte, un bel carattere, mormorava quando si discorreva del signor Wu, l'uomo di cui la Cina ha bisogno, di cui ha bisogno ogni paese, e un amico del Giappone poi. Il signor Muraki avrebbe potuto dirsi lieto di avere per genero il figlio di tanto amico. In quanto a Tamà, Aiwan non riusciva a dominare un moto di indignazione al pensiero che la si potesse destinare a un uomo come il generale Sekhi. Ma no, certo ella non riteneva la cosa possibile, forse non sapeva neppure del progetto. Il pericolo stava tuttavia nell'idea che obbedirvi fosse per lei un dovere. Tamà era una così strana miscela di caparbietà e di obbediente pieghevolezza. Per tutta l'estate e fino ad autunno avanzato, Aiwan dibatté fra sé questi pensieri. Qualche volta gli pareva di non avere più dubbi sul suo amore per Tamà, e allora faceva fermo proponimento di parlarne direttamente al signor Muraki, secondo l'usanza moderna. Ma vederlo e sentirsi subito scoraggiato era tutt'uno. Nella piccola persona del vecchio c'era una dignità che lo paralizzava, né ardire troppo significava tutto rovinare. come del resto avrebbe potuto parlarne al padre senza prima conoscere il sentimento di Tamà. Se egli le fosse riuscito repellente. Qualche volta, guardandosi al piccolo specchio fra le quattro pareti della propria camera, concludeva che doveva essere repellente davvero. La sua faccia era troppo lunga e sempre pallida. Non faceva abbastanza ginnastica, non gli piaceva camminare come a Bungee e doveva camminare di più. E poi, con una specie di timor panico, si ripeteva che non era sicuro di amare Tamà. Comunque, ne concluse che doveva almeno farle sapere che non avrebbe dovuto sposare il generale Sekhi. Sarebbe ben riuscito a trovare il momento per dirle almeno quello, dopodiché, certo, si sarebbe sentito sollevato. Ma non era facile trovare il momento adatto. Vedeva Tamà di sfuggita e quando tentava di parlarle di qualche cosa di particolare, addio possibilità di segretezza. Compariva subito una fantesca o la signora Muraki che con aria naturale si soffermava affabilmente a discorrere per allontanarsi presto con Tamà, della quale proprio allora aveva speciale bisogno. Oppure Aiwan la vedeva quando l'intera famiglia era riunita e anche in quei casi Tamà era la prima a scusarsi e ad andarsene. Parevano tutte combinazioni, ma dopo settimane di vani tentativi egli si persuase che invece non lo erano affatto. In realtà in casa non volevano che Tamà gli parlasse a quattro occhi. Egli si sentì le vampe al viso. Forse non si fidavano di lui? Eppure nulla era mutato, tutti lo trattavano come il solito e davvero era difficile provare che volessero impedirgli di parlare con Tamà. Un pomeriggio, finalmente, tornando a casa, la vide china su di una pietra sull'orlo di uno stagno del giardino. Faceva di nuovo freddo e l'acqua era coperta da un sottile strato di ghiaccio. Bisognava afferrare la palla al balzo. Volevo dirvi, balbettò nel giapponese che ora aveva imparato a parlare correttamente. Ho cercato di dirvi. Ella lo guardò con un'espressione di sorpresa negli scuri occhioni, la mano ancora sulla pietra che andava collocando sul ghiaccio sottile. Non doveva, pensò lui, prendere freddo alle mani, ma la franca, morbida occhiata che ella gli diede lo incoraggiò. Non dovete sposare un vecchio, sussurrò. Ma non lo fate, ve ne prego. Prima che potesse dire altro, ecco la signora Muraki venir loro incontro dalla casa. S'era buttato uno scialle sulle spalle e quasi correva, egli non aveva mai notato tanta fretta in lei. Fu lì lì per andarsene, ma poi si trattenne. Perché andarsene? Non faceva nulla di male. Tamà, vedendo la madre, s'alzò e le andò incontro, ma prima di muoversi trovò il tempo per dire ad Aiwan: Non credete che sposerò chi mi piacerà? Nella morbidezza del viso e della voce c'era una nota di caparbietà e subito la felicità tornò in Aiwan come una luce. Restò a guardarla mentre si riuniva alla madre. Vide che parlavano, ma non afferrò le parole. Notò soltanto che Tamà scosse il capo una, due, tre volte a proposito di qualche cosa. Senza oltre indugiare, si ritirò nella propria camera, ridendo un poco, e sedette senza neanche togliersi il cappello. Ricordando il volto di Tamà curvo sullo stagno, sorrise. Non si poteva dir davvero bella, egli ne era conscio. In lei non c'era nemmeno la squisita grazia di Peonia. C'erano state delle giornate, ricordava, durante le quali non gli era affatto sfuggito che il vestito scolastico di Tamà non le si confaceva né per lo stretto taglio straniero né per la tinta. Ma ora Tamà compariva sempre in vesti a fiorami vivi, strette alla cintola da larghe fasce. Il fresco volto colorito, dominante le seriche pieghe, era ideale. D'altra parte, nel matrimonio c'era qualche cosa di più che la grazia, vero? Si ricordò dei discorsi di sua madre sulle nuore. Le donne, diceva, dovrebbero essere carine, ma non troppo. Esso giungeva come oracolo: gli estremi sono sempre un male, e una donna troppo carina è una maledizione per tutti, persino per se stessa. Soleva dir questo davanti ad Aiko, ripetendosi per un motivo che era sfuggito ad Aiwan. Ma ora vedeva e capiva. Un uomo doveva poter contare sulla propria moglie, e questo era quanto egli trovava in Tamà, sotto le sue grazie, qualche cosa di cui, se l'amava, avrebbe potuto fidarsi. Era davvero innamorato? O non lo era? Come saperlo? Sapeva soltanto che gli piaceva tornare a casa e trovarcela. E se quello non era amore, che cos'era? Se potessi restare solo con lei, Magari per un'ora soltanto, si diceva, lo saprei. Ma non c'era la minima speranza. Tama era come un uccello legato a un filo invisibile. L'uccello volava qua e là, ma mai più di quel che consentisse la lunghezza del filo. Aiwan s'alzò di scatto, si tolse giacca e cappello e accese la pipa giapponese. Da qualche tempo aveva imparato a fumare la pipa, un'abitudine, diceva signor Muraki, calmante. Uscì nel minuscolo giardinetto adiacente alla sua camera e guardò nella pozza chiara dello stagno. Tutto in giro era fresco e lindo, come sempre, come era naturale, però notò che qualcuno aveva ripulito le pietre dopo la pioggia della notte passata. Le pietre erano state raccolte, lavate e riposte. Aiwan ne tolse una dalla sottile cornice di ghiaccio e la guardò. Anche la parte che aveva poggiato contro il suolo era pulita. Non vi restavano che pochi granelli di sabbia umida. La ripose con cura. In quella casa, si disse, sarebbe stata notata anche la minima rimozione di una pietra. Decise di aspettare. Avrebbe aspettato fino a che gli fossero meglio noti i sentimenti di Tamà e di suoi. Voglio fare una gita in montagna, disse improvvisamente Bungee un giorno di primavera, alzando gli occhi dalla scrivania. Perché no? È dall'anno nuovo che non si fa vacanza. Le gambe mi si vanno ammollendo. Aiwan era abituato a quegli improvvisi umori di Bungee. Per settimane e mesi Bungee lavorava come se non esistesse altro che il lavoro e poi un giorno, senza preavviso, deponeva la penna e picchiava i pugni sul tavolo. Un'arrampicata in montagna, diceva sempre col medesimo tono di voce. Aiwan lo guardò, sorridendo. Gli era occorso molto tempo per imparare a fare dell'alpinismo con Bungee, per quanto si fosse proposto di dedicarvisi. Quelle gambe di Bungee, arcuate come le chele di un granchio, sempre strette nelle mollettiere e coi piedi nelle scarpe di cuoio, erano capaci di inerpicarsi su per certi pendii con una velocità che a Day One non riusciva di raggiungere, per quanto ci si mettesse. S'abituò a vedere Bungee saltare in una sua tipica posa rattrappita su qualche roccia lassù, molto più in alto di lui, e aspettare. Domani, disse Bungee, le azalee saranno in fiore, andremo ad Unzen. Si fermò, guardò Aiwan con una smorfia e soggiunse, come se niente fosse: prenderemo Tama con noi, vero? Prima che tu venissi, mi accompagnava sempre. Aiwan si cercò la pipa in tasca. Non doveva mostrare il suo turbamento. Se aveva la pipa stretta fra i denti, avrebbe potuto tenere occupate le mani, accenderla e fingere di far qualcosa. Verrà? Domandò freddamente. Aveva vissuto in così lunga attesa che ora riusciva a controllare la voce e gli occhi. Non so, disse Bungee, sbirciandolo con un'espressione maliziosa. Dipende dal modo come giudicherà la cosa. Aiwan non rispose. E Bungee continuò. Intendo, verrà se giudicherà che la gita possa giustificare la tempesta che verrà dopo. Vuoi dire? Non si poté trattenere dal domandare Iwan. Bungee si strinse nelle spalle. Mio padre, disse con semplicità. Oh, mormorò Iwan. Vedremo, disse con calma Bungee. Comunque glielo domanderò. Potrà fare come le piace. Improvvisamente si mise a ridere forte. Perché ridi? Domandò Aiwan con aria di finto tonto. Oh, per niente, disse maliziosamente Bungee. A me quel generale Sekhi non piace, ecco tutto. Aiwan gli volse le spalle senza rispondere e cominciò a fischiettare. Entrambi ripresero a lavorare senza dirsi altro. Ma questo, pensò Aiwan, ascoltando le proprie voci interiori, questo intimo senso di calore e amore. Di colpo gli venne da pensare che sarebbe stato deplorevole se l'indomani Tamà non avesse partecipato alla gita. E se lei non veniva, lui avrebbe addotto a Bungee qualche scusa, magari fingendo di non star bene. Si sarebbe chiusa in camera e forse chissà se fosse rimasto in casa con Tamà tutto il giorno, ma forse Tamà sarebbe venuta. Lavorò di lena. Non c'era nulla da fare o da dire per anticipare il domani. Tamà sarebbe venuta? Non sarebbe venuta? Quel suo sentimento si chiamava speranza. Sperava con tutto il cuore, ma era sciocco sperar troppo. Domani poteva piovere, per esempio. La pioggia avrebbe trattenuto una ragazza, non Bungee, e Gli Aiwan sapeva davvero poco sul conto di Tama. Era forse di quella specie di ragazze che partecipavano a una gita prestabilita, piovesse oppure no? Quella possibilità di pioggia lo assillò, divenne un'ossessione. Gli parve che in tutti i 3 anni passati in casa Muraki egli non avesse fatto altro che aspettare quella giornata, domani. Terminato il lavoro in ufficio, uscì a fare una passeggiata sul lungomare. Era dal mare che arrivavano le piogge, quando non arrivavano dal monte. Alzò gli occhi e guardò verso le cime. Almeno per il momento non c'erano nubi né sul mare né sui monti. Un po' calmato rientrò in casa, ma quella notte gli parve di sentir pioggia sul tetto e con un balzo fu sull'orlo del giardino. No, non pioveva. Splendeva un placido plenilunio primaverile e il rumore che aveva udito era l'incessante mormorio della cascatella, tradotto in pioggia dalla sua paura. Trasse un enorme respiro di sollievo e tornò a letto. Eppure, quando la mattina dopo la vide, gli parve d'essere sempre stato sicuro che ella sarebbe venuta.